Festival sono luoghi in cui il sapere elaborato dai competenti, dai ricercatori, dagli studiosi viene condiviso con un pubblico molto ampio. È così al Festival dell'Economia a Trento e sarà così in questi giorni per il diritto, che è un sapere fondamentale a Piacenza, un sapere fondamentale il diritto perché conoscere le regole, giuste o sbagliate che siano, è fondamentale per il cittadino per interagire nel modo migliore con gli altri, con la società, con lo Stato, con le istituzioni, e speriamo che quindi questo sapere diffuso e condiviso serva e rimanga nel tempo. Le persone oggi sono abbastanza disorientate dalla complessità della vita in cui si ritrovano e hanno bisogno di orientamento, hanno bisogno di pluralismo da una parte delle idee, ma hanno anche bisogno di orientamento. Qui diciamo c'è un certo numero di persone che si riconoscono in una visione aperta della società, che cercano di dargli delle indicazioni. Poi naturalmente ciascuno ne trarrà lo spunto per una propria scelta, per una propria direzione.